Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Può andarsi a prendere gli abbuoni e la vittoria d'etappa. Vai Fabio, un Fabio Aru vincitore della Vuelta. Fabio Aru che porta il tricolore alla Plage de Belleville, dove ci sono le belle ragazze, c'è la bandiera italiana e Fabio Aru spinge e Richie Porte che vuole l'abbuono e Chris Froome che non demorde. Finale spettacolare. Daniel Martin ancora che insiste, ma vieni via, abbandonati e andiamo a piangere Fabietto Aru. Vince il campione italiano Fabio Aru, occhio al cronometro, occhio a quello che volete, ma Aru bissa il successo di Nibali. Sono incredulo, sinceramente. Ho attaccato i 3 chilometri, ho cercato di dare tutto, volevo vedere un po' se si muovevano i big. La Sky stava facendo un ritmo molto alto, io però volevo vedere come stavano anche gli altri e ho dato il massimo. L'ultimo muro ai 300 metri era durissimo, però quando mi sono voltato ai 100 metri dall'arrivo ho capito che ce l'avevo fatta. Vincere con la maglia tricolore per me è una grandissima soddisfazione. Ho passato una primavera molto difficile, ma per fortuna con tanto impegno è girata anche per me. Andiamo a piangere, mi sembra un po' tanto, francamente. Andiamo a festeggiare senz'altro Tour de France, cui non ci si annoia. Dopo il caso Sagan, ecco Fabio Aru che porta il tricolore lassù dove l'aveva portato Nibali, tra l'altro. Ma adesso ne parliamo. Ragazzi, vi do un consiglio spassionato. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Vi do un consiglio, lo giuro, spassionato, non perdetevi la puntata di oggi. Partiamo da qui, dal Tour de France, dal trionfo di Aru, dalle prospettive. Magari diamo un'occhiata anche a caso Sagan di nuovo, lo rivisitiamo. Ma poi, allora, già vi dico, Napoli festa fallita per la cittadinanza onoraria a Maradona, mentre la squadra è a Di Maro e lì io credo si facciano quest'anno soprattutto affari d'oro. Poi avremo Filippo Galli, con cui parleremo del Milan che sta nascendo e che suscita grande entusiasmo. I numeri ve li do dopo. Per quanto riguarda gli aficionados presenti al Milan, all'Inter, al Napoli, eccetera, e ore 15, dopo il GR, Zvonimir Boban, Zvone Boban, Zorro Boban, ai nostri microfoni. Vi basta? Vi basta così? Buongiorno Pier Augusto Stagi. Buongiorno anche a voi, ciao Carlo. Io saluto anche il signor Ivan Basso. Ciao. Buongiorno. Quanto tempo, buongiorno Ivan, era ora che tornasse a questi microfoni. Allora, partiamo dal racconto della giornata di ieri da Pier Augusto. L'abbiamo già in parte sentito, la cronaca dell'arrivo di Aru, le sue parole. Dimmi Pier. Beh, è stata una bellissima giornata che dà soprattutto morale a Fabio Aru, a tutto il movimento, no? Abbiamo corso il Giro d'Italia con questa tiritera che abbiamo solo Nibali, che non c'è nessun altro, che non siamo più. Ricordiamo che Aru era tristemente infortunato. Sì. E comunque il mondo del ciclismo a livello nazionale, avere due corridori come Nibali e Aru è già tanta cosa, non è che c'hanno in tanti questi corridori. Al Tour de France quest'anno partecipano 3 corridori americani, anche se sono 3. Sì. Sì. Ma la moda degli americani mi sembra un po' passata. Adesso è il momento degli inglesi. No, soprattutto è il momento dei colombiani, ce ne sono tanti colombiani forti, anche se stanno deludendo. Ecco, cosa ha detto la tappa di... Allora, ha detto che Aru non ha vinto il Tour de France, questo ma c'è e può divertirci. Credo fino alla fine. Intanto cominciamo. Allora, a vedere ci crediamo. Allora, la domanda è: ci crediamo perché Ivan Basso, che le strade del Tour le conosce come le sue saccocce? Ci crediamo perché Aru ha già vinto una corsa tappe di 3 settimane, ha già fatto 2 podi al Giro d'Italia, quindi ha tutti i requisiti, e soprattutto credo che il vero punto di forza per Aru è una primavera che da qualche settimana fa era la parte negativa della stagione, adesso diventerà il suo punto di forza. Quando i corridori rientrano da un infortunio importante, la sofferenza che il corridore ha dentro, la fatica nel ritrovare la forma, poi si ritrova con una freschezza atletica superiore agli altri. Io credo che ha una grande occasione e può lottare non solo per il podio ma per vincere questo tour. Caspita, Ivan, Stagi mi ha sempre raccontato che questo tour era sotto controllo della Sky, che From non era attaccabile, che forse bisognava bagnare le strade o sperare in un tour bagnato dal Giove Pluvio. A quanto pare non è così. Si è sbagliato, Stagi? Io incrocio le dita, però ti dico che intanto non so, sabato e domenica sa prendere di più a Chambéry. Infatti, certo, spero voglio, amico mio, che tu abbia torto marcio. Io non voglio sminuire, non voglio caricare eccessivamente. Certo che tutti li insegniamo, io per primo, cade chiaro. Però ieri Fabio è stato, ha provato le sue sensazioni, come ha detto lui, ha provato la febbre agli altri, ha colto il momento giusto, perfetto, perché è partito da dietro, però ha colto anche veramente l'attimo. Adesso lo conoscono, Froome è stato chiaro, adesso lo tengono d'occhio. Abbiamo commesso un errore, l'abbiamo sottovalutato, adesso non lo sottovaluteremo più. Adesso non è che ieri non è una minaccia, forte, è una minaccia, insomma. Adesso il buon Fabio sa che qualsiasi movimento farà sarà curato dalla pattuglia di Chris Froome. Ivan, dimmi che comune amico Stagi ha sbagliato. Totalmente d'accordo che abbia colto l'attimo. È stato l'unico che aveva le gambe per andare via. Quando Sky ha imposto il proprio ritmo, io credo che se Sky aveva la forza per chiudere su Aru e poi dare il via a un attacco di Froome, l'avrebbe fatto. Aru ha fatto una prestazione e lo si vedono anche da, ovviamente il mio lavoro è anche quello di analizzare, analizzare i dati nel dettaglio, perché hai ovviamente il peso dell'atleta e tutto il resto, ma ha fatto una prestazione eccellente. E non sono totalmente d'accordo, chiaro, ha colto l'attimo giusto, ma era un attimo che non erano capaci tutti di cogliere, non è un attacco, è un attacco fatto quando gli altri non potevano farlo. Tuo amico Ivan Basso ti ha dato torto, Pieragusto? Beh, ma sembra avere diciamo un cartellino giallo da Ivan Basso. Io vorrei, però può sembrare, ma il ritmo uno per volta, Ivan. No, io per la mia analisi è che comunque quando lui ha attaccato in un momento dove non c'è stato un rallentamento, dove Sky stava imponendo il ritmo che voleva. Solitamente un atleta come Froome, se aveva compagni che potevano chiudere, avrebbe fatto tirare i compagni più forte. Sì, quando lo riportavano vicino ad Aru sarebbe partito. Allora vi faccio una domanda. Su questo, Carlo, scusami, dimmi. Su questo ha totalmente ragione, perché c'è anche un altro aspetto. Aru coglie l'attimo, va via benissimo, poi a un certo punto è Froome che tenta di chiudere il buco, non ce la fa, chiede la collaborazione dei suoi compagni di fuga, che gli fanno il gesto classico. Non ne abbiamo più. Ivan, io ti chiedo ancora questo. Cosa importante è anche il modo in cui pedalava Aru negli ultimi. Innanzitutto fare un attacco ai 3 chilometri. 3 chilometri sono lunghi in salita, non sono 3 chilometri di pianura. Seconda cosa, il fatto di poter stare tanto sui pedali è sinonimo di grande leggerezza, quindi è molto molto molto magro, ed è anche sinonimo di grande condizione. Perché un atleta quando sta molto bene riesce a stare anche molto tempo sui pedali, e questo è quello che ha fatto Aru, l'aveva già dimostrato il campionato italiano, e devo dire che ha ripetuto la stessa identica prova ieri.

non dico conveniente, ma più opportuno, anche forse per dare una veste maggiormente istituzionale al conferimento dell'onorificenza, darla a Palazzo San Giacomo, che è la sede del comune. È ovvio che insomma il giorno prima l'assessore Ciro Borriello, che è un bravissimo assessore, una brava persona che si spende molto, stava al tavolo accanto a Diego Armando Maradona, insomma, ma sì, ma ho capito, però in qualche modo il cappello insomma l'amministrazione comunale su questo evento giustamente, comprensibilmente, l'aveva messo. Poi probabilmente anche il discorso di questa poca chiarezza sul presunto compenso che avrebbe ricevuto Maradona, il fatto che non tutti fossero d'accordo, secondo me ha indotto ad avere un profilo più defilato, più istituzionale, e dunque c'è stata questa grande operazione diplomatica cordialmente detesto i profili diplomatici. Io avrei dato la cittadinanza onoraria di fronte a tutto il popolo possibile a Diego Armando Maradona, senza se, senza ma, su quel palco, davanti a tutti, davanti alla gente che lo ha amato e lo ama ancora adesso. Dei profili istituzionali sinceramente me ne importa un figo secco. Sto provando a trattenermi, fammi capire perché devi dare la cittadinanza onoraria a Maradona, che è l'uomo, è il simbolo di quella gente, perché cazzo di dargliela in comune? Ma fammi capire, ma secondo me è una sciocchezza colossale. Ma Pesaro è stata conferita, insomma, è stata conferita in privato tranquillamente, seriamente. Cioè, nel momento in cui l'idea che mi sono fatto io vivendo questi giorni, nel momento in cui decidi di organizzare una cosa del genere, che secondo me ci sta ed è una bella cosa, ma che bellissima, poi è ipocrita pensare che una cosa del genere non la puoi organizzare senza puoi organizzarla senza sponsor, no, perché sono dei costi, c'è un'amministrazione comunale che ha un bilancio, quindi non c'è nulla di male. Nel momento in cui vuoi andare dritto su questo aspetto, vai dritto e vai. Ma sì, se la buttiamo sui quattrini, allora non ne parliamo neanche. Massimo, ma vai a Di Maro? Il 15, il 16. 15 e 16, sai chi abbiamo in linea adesso? Ti aspetterà con la braccia aperta, io credo. Andrea Lazzaroni, il sindaco di Di Maro, a proposito di cose istituzionali. credo che tu lo conosca, no? Sindaco, buongiorno. Buongiorno, sono già a braccia aperte. Ugolini arriva il 14-15. Noi ci siamo sempre qua. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sindaco di Di Maro Folgarida. Sta chiaro. C'è posto da dormire per Ugolini? Hai prenotato? Sì, troviamo qualcosa. Già prenotato. Tenda canadese per Massimo Ugolini. Perché lì. Attesi 5. Allora, 2.000 abitanti, arrivano 3.000 napoletani al giorno, con picchi di 5.000 nei giorni delle partite, previste 4 amiche. Anche qualcosina di più. Mica male. Immagino che sia tutto esaurito nel raggio di chilometri. Sì, abbastanza. La località è il comune è molto grande, ha 5 frazioni che hanno tutte delle strutture ricettive. E siamo verso il tutto esaurito, ma comunque i napoletani vengano pure quanti vogliono, troviamo il posto per tutti. Vediamo, si trova in canadese, in tenda canadese con Massimo. Vi garantisco che di ritiri ne ho girati tanti, quasi tutti, e quello che accade a Di Maro non ha paragoni, insomma, perché per la durata e quindi per l'opportunità, insomma, ha concesso a quasi tutti i tifosi di organizzarsi, no? Perché giorni. Sono praticamente 3 settimane, sì, sì, perché comunque insomma è estremamente accogliente, c'è grande disponibilità, ovviamente tante cose da fare, però ecco, è bello perché vivi lo spirito del ritiro di un tempo, cioè adesso sono spot 4-5 giorni, tournée, Napoli, soprattutto Sarri è sempre spinto in questa direzione, anche perché comunque il Trentino, il comune di Folgarida e Di Maro, si è speso tra virgolette molto con De Laurentiis, che comunque non è un cliente facile con il quale trattare, dico bene, no. Sindaco? Sì, il presidente De Laurentiis è un personaggio molto carismatico. Ovviamente anche noi siamo montanari della testa dura, quindi è un connubio che va perfetto, no? E troviamo tra l'altro 7 anni, quindi è un ritiro da record, il 7º anno di fila, 21 giorni ogni anno, praticamente possiamo dire che siamo più che amici con De Laurentiis. Di Maro è amica di Laurentiis. Di Maro, provincia di Napoli, quindi Massimo Guglielmi passi di lì e poi vai a Ibiza, no? Normale. No, è più esatto. La stagione del momento, magari settembre in privato però. Ah, settembre in privato, ho capito. No, poi a proposito di cifra da record, anni da record eccetera, allora 3.000 napoletani al giorno per 3 settimane, ieri c'erano 5.000 aficionados del Milan ad accogliere il nuovo Milan di Montella. Signor Sindaco Lazzaroni di Maro, sa quanta gente c'era ieri a Brunico per l'Inter? Sono stati 22, 23, quanti erano? 15. Sono un ottimista. Lei è un inguaribile ottimista. 15, sì, 22, 15 erano in 15 a vedere i primi vagiti dell'Inter di Spalletti. Quindi, no, vediamo. Noi avevamo già una foltissima schiera di tifosi napoletani. Dove è partito tutto il programma ieri, l'arrivo, poi la serata, le televisioni, sempre bello. Dove sta l'affare? Dove sta l'affare? Allora, io voglio chiedere, voglio chiedere una cosa. Il denaro che conta pure quello. Voglio chiedere ancora una cosa ad Andrea Lazzaroni, visto che io e Massimo Golini abbiamo parlato prima sulla storia di ieri a Napoli. Allora, cittadinanza onoraria di Di Maro, la diamo in comune e poi andiamo a festeggiare in piazza, o la diamo, mettiamo De Laurentiis, lo diamo davanti a tutti con a tutto il popolo? Cioè, sto parlando di Maradona, ho seguito il profilo istituzionale fino a un certo punto. Ma l'istituzione ha la sua importanza e è giusto che svolga le sue mansioni all'interno delle sue strutture, però Maradona era praticamente già cittadino di Napoli, il popolo l'aveva scelto, Napoli aveva scelto che fosse il loro cittadino onorario. Esatto, quindi quella cittadinanza gliela consegni di fronte a Napoli, non in comune di fronte agli assessori, punto. Grazie. Ognuno ha il suo pensiero, se lo tiene il mio, questo, e mi scappa. Grazie. Però, c'è un aspetto sociologico, secondo me è importante, perché i 15.000 che hanno occupato la piazza, ci si aspettava qualcosa di più, no? Almeno il doppio. Cioè, secondo me ieri, nel momento in cui il figliol prodigo riceve la cittadinanza onoraria, finalmente si stacca il cordone ombelicale tra Napoli e Maradona. Cioè, è stato un legame serale, no? Quasi morboso in questi 33 anni. Credo che, insomma, il segnale arrivato da Napoli, grande riconoscimento, grande affetto, sarai per sempre uno di noi, però adesso guardiamo avanti. Non sono d'accordo, Massimo, credo che il cordone ombelicale non si stacchi mai, e credo che se le cose fossero andate diversamente quella piazza sarebbe stata praticamente piena. Grazie comunque a Massimo Golini da Sky, nostro amico, e a Sindaco Lazzaroni, buon lavoro. Buona giornata a voi. È un augurio di cui ha bisogno da qui alla fine di luglio. Ci vediamo per la borsa e torniamo dopo. Ad avere i soldi di Inzaghi. Ad avere i soldi di Pippo Gol. Ad avere i soldi di Inzaghi. Ma che Inzaghi? Ad avere i soldi di Pippo Gol. Chiudi. Tutti convocati. La prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, ma nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato o per una gara sportiva. Radio 24 ha deciso di raccontarveli, i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. così, non pensavo così, sinceramente, perché siccome i nostri cugini ci hanno detto che ci davano i falsi cinesi, invece sono questi cinesi, ma di bocca buona, cioè nel senso che i soldini penso che li abbiamo portati e stanno facendo una bella, infatti vedi cosa c'è qui, se non ti ricordi l'anno scorso qui non c'era tutta sta gente. Secondo me è un buon mercato perché stanno arrivando tanti giocatori molto, diciamo, diversi fra loro, però secondo me è un ottimo mercato. Non sarà subito il primo anno i risultati, perché è una squadra che arriva da tanti giocatori nuovi, secondo me non potrebbe subito, però vediamo, speriamo bene. Bisogna vedere adesso il nostro mister Montella, è uno che capisce di calcio, quindi io mi fido di quello che cercherà lui, oppure che vorrà acquistare, che chiederà alla società qualche nuovo. Io di questi già mi fido, di quelli che hanno preso al Milan, perché si vede che sono giocatori che servono al Milan, perché sennò qui noi tifosi non ce la facciamo più a sentire gridare sti juventini. Qualche voce tra i 5.000 che ieri hanno accolto il Milan al primo raduno senza Silvio Berlusconi, rifiorisce l'entusiasmo. 5.000 ad accogliere il Milan il primo giorno del Milan, ricordo, tanti napoletani andranno a Di Maro, in 15 erano a Brunico per vedere l'Inter, ma questo, vabbè, questa è cronaca. Filippo Galli, buongiorno e grazie. Buongiorno, ciao. Filippo, ciao. Galli, responsabile del settore giovanile rossonero. E io volevo parlare con te del Milan che sta nascendo, ma prima voglio chiederti una cosa, prima che mi dimentichi. Visto che alle 15, dopo le 15, dopo il GR delle 15, avremo Zoro Boban, che cosa devo dirgli da parte tua? Salutatemelo tanto. Te lo saluto tanto. Che è stato veramente un grande, che sì. Ora so che sta facendo un lavoro importante. Sì. Lì dove si trova, come dove sapete, all'UEFA, alla FIFA, vice segretario generale. Sì, chiedo scusa. Vabbè, comunque te lo saluto tanto. Confusione in testa, salutatemelo tanto. Saluti tanti saluti da Filippo. Lui è in FIFA, accidenti, non è in UEFA. FIFA. Ubi Maior, non ci si può dire. Ascolta, sono arrivati un sacco di giocatori da Musacchio, che si è Riccardo Rodriguez, Andrés Silva, Borini, Çalhanoğlu, Conti, milioni spesi 149, è un Milan totalmente nuovo, forse non sarà mai visto una squadra così rinnovata nel giro di un estate. Praticamente confermati saranno Donnarumma e poi vediamo chi altri nella formazione titolare. Filippo, non so quale sarà la formazione titolare, formazione abbia in testa mister Montella, però è chiaro che la società ha operato davvero molto bene sul mercato, dando nuove opzioni al mister, e quindi credo che, insomma, come lo ha detto il mister, lo ha dichiarato il mister ieri, insomma, è molto soddisfatto del lavoro fatto dalla società, e quindi si trova ora ad assemblare tutta una serie di nuovi giocatori con l'obiettivo della Champions. Io ieri ero Milanello non perché dovessi essere presente, ma perché stavo andando al nostro centro tecnico all'Insubria e ero in anticipo, e quindi ho chiamato Mirabelli e ho detto vengo a fare un salto. Per fortuna avevo davanti a me la macchina che portava Franco Baresi, quindi diciamo che si è quindi aperto un po' come il corridoio, come il Mar Rosso si è aperto, il scenario è ancora là sulla Piero Cormano, come dice il mio amico del Torino. Quindi siamo riusciti ad entrare al centro sportivo Milanello, un entusiasmo veramente, mi sono quasi commosso, perché davvero vedere il popolo milanista di nuovo così entusiasta, così vicino alla squadra, era tanto tempo che non la vedevamo. Tanta sofferenza, poi nella nostra storia siamo abituati a soffrire, lo so bene, però sì. Insomma è chiaro che questo momento è un momento che il popolo milanista vive in maniera piena, in modo davvero viscerale ed è bello, insomma. E poi non c'è dubbio, Filippo. Senti, ma così, al settore giovanile che succede? Quali novità ci saranno? Perché della prima squadra sappiamo... Al settore giovanile, lo sapete, c'è mister Gattuso sulla primavera, che tra l'altro sarà, insomma, sotto la diretta conduzione dal punto di vista tecnico di Mirabelli, come è giusto che sia, quindi più accorpata alla prima squadra, e quindi... insomma, noi speriamo di aver fatto un buon lavoro rispetto alla formazione dei giocatori che avrà a disposizione mister Gattuso. Sicuramente ci saranno, probabilmente ci saranno dei nuovi ingressi, si sta lavorando perché insomma il campionato primavera l'anno prossimo sarà un campionato davvero impegnativo con tutte le migliori in un unico girone a 16 e quindi insomma bisogna partire subito con una squadra competitiva e maggiori sinergie con la prima squadra. Ma sì, meglio, queste sinergie ci sono sempre state. Noi sotto invece continueremo a lavorare così come abbiamo fatto e avremo la possibilità di lavorare almeno per quest'anno anche con i più piccoli nell'attività di base secondo una metodologia unica, cosa che insomma sicuramente dal mio punto di vista mi fa molto piacere. Sarà una sorta di laboratorio perché paradossalmente abbiamo l'esito, no? Cioè dell'under 15 all'under 19 ormai sono 3-4 stagioni che lavoriamo in un certo modo e adesso dovremo andare a capire tutti insieme come lavorare sotto affinché questo esito sopra possa migliorare. Inutile che ricordi ai nostri ascoltatori, al Pueblo, chi è uscito dal settore giovanile del Milan diretto da Filippo Galli nelle ultime stagioni. Filippo, ti chiedo, posso chiederti ancora due minuti dopo il traffico? Sì, sì, assolutamente. Grazie, allora traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Filippo Galli, grazie di essere rimasto. Grazie a voi. Vorrei tornare un attimo sulla prima squadra perché allora mi sembra fatale un cambio di modulo perché è arrivato Çalhanoğlu, eccellente giocatore ma un trequartista, e Milan di Montella non giocava con il trequartista, quindi questo mi sembra abbastanza scontato o no? Beh, forse Çalhanoğlu potrebbe giocare anche come esterno alto, esterno a sinistra per venire dentro il campo, non so, queste ripeto poi sono valutazioni che farà il Milan insieme al DS Mirabelli, insomma tutti insieme, credo che si confronteranno per poi capire quale sarà la soluzione migliore sul campo. Ecco, io credo che l'importante sia davvero che siano arrivati giocatori di qualità che si uniscono ad altri giocatori che hanno dimostrato quest'anno insomma di poter fare bene nel Milan, di essere giocatori importanti, che dice, insomma, non dimentichiamo che il Milan è tornato in Europa e adesso insomma si punta all'Europa più importante. Questo è chiaro, obiettivo Champions League, ingresso alla Champions League è un obiettivo dichiarato e mi sembra corretto. Invece ti voglio chiedere, all'interno di questo mercato, oggi arriverà Conti dall'Atalanta, secondo me manca ancora qualcosa che insomma continua a ripeterlo tutti i giorni, è l'uomo di centrocampo, quello di esperienza, di personalità, di carisma, che dice palla a me, ci penso io e fa partire insomma Biglia, sto parlando di un giocatore o simile Biglia. Io leggo anch'io sui social piuttosto che sui giornali di questo accordo che c'è già con il giocatore, insomma, però non si riesce a trovare l'accordo con la Lazio. Ma sì, ma anche perché chiedono 20 milioni per un giocatore di 31 anni in scadenza l'anno prossimo. Però queste sono dinamiche di mercato, ovviamente non voglio entrare in questi termini. No, per carità, trattare con l'ottito, cioè assegnarsi con la sinistra, dai, lo sappiamo. No, però siamo d'accordo sul fatto che manca quel tipo di giocatore, Filippo. Ma è un giocatore di esperienza, sicuramente è un giocatore che gli manca, cercando un giocatore di esperienza che può dare subito continuità e alto rendimento, sicuramente è un giocatore che manca, anche se vabbè, cioè, non dimentichiamo che c'è Montolivo, ci sono Locatelli, però Locatelli non è la figura che dicevamo prima, perché ovviamente non ha l'esperienza. Montolivo invece è un giocatore di esperienza, non so quali siano le idee rispetto a lui, però insomma è un altro giocatore di valore che è a disposizione ad oggi per Mister Montella. E tu sei esperto di giovani, André Silva, molto promettente, pagato molti soldi, ci può affidare le chiavi dell'attacco già pronto? Insomma, io l'ho visto un po' anche in Confederation Cup, sembra un giocatore tecnico, un giocatore che sappia fare tante cose, io credo che qui troverà l'ambiente giusto. Ecco, l'importante è questo entusiasmo che deve essere davvero deve contagiare un po' tutti, no? E poi certo. È sempre il campo che parla, noi possiamo stare qui a dire tante cose, ma poi credo che sarà importante che i ragazzi si trovino alla meglio in campo e riescano a trovare quella chimia, no? Quella chimia che è sempre difficile da da trovare, però insomma, e chi noi... lo sa meglio di te che hai vinto tutto, sì, ma caro, tifosi caro Milanese, insomma, aspettiamo di tornare in alto. Ciao Phil, grazie, buon lavoro, ti abbraccio Filippo. Ciao. Galli, grazie. Allora andrà la provincia di Modena al volo e poi chiariamo un punto con Marco Berinazzo del Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi ricontattato. A lei. E niente, io semplicemente volevo più che fare una domanda esprimere un'opinione e capire se poteva essere condivisibile. E io sono tifoso dell'Inter e mi sta dando un po' fastidio il fatto che tutti i tifosi si stanno lamentando clamorosamente di quello che al momento non stiamo facendo ed esaltando clamorosamente quello che invece sta facendo il Milan. E io credo che il Milan ha preso dei buoni giocatori, nessun fenomeno. Io penso che i nuovi acquisti del Milan nella migliore formazione dell'Inter nessuno sposti gli equilibri. Sono d'accordo con lei. E quindi questo catastrofismo sono d'accordo Andrea, c'era un gap clamoroso tra Milan e Inter dal punto di vista dell'organico lo scorso anno, poi il rendimento è un'altra cosa. Sono d'accordo con lei, io credo che comunque l'Inter farà un mercato funzionale e che i giocatori che c'erano l'anno scorso non sono quelli che i tifosi dell'Inter hanno visto, e di questo lo scopriremo non tardissimo. Marco Berinazzo, buongiorno. Buongiorno, senti, buongiorno Carlo. Mi deve chiarire un punto. Ora non voglio tornare più di tanto sulla questione Donnarumma, ma c'è un punto che mi devi chiarire tecnicamente. Allora, si dice che Raiola pretenda, prima di chiudere l'accordo, una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, percentuale del 20%, quindi per un quinto Donnarumma sarebbe suo, è giusto? È corretto? Beh, sai, tecnicamente bisognerebbe capire se questa percentuale viene descritta come appunto una proprietà del 20% del cartellino in mano a Raiola, e questo è vietato dalle norme FIFA, oppure se viene, diciamo, rivestita di una sorta di commissione in percentuale al prezzo di rivendita, e quindi senza un diritto di proprietà sulla parte economica del cartellino. Però se è scritto, se scrivono, quando lo vendiamo per 100 milioni il 20% va a Raiola. Questa è in chiave di commissione, formalmente non è vietata, perché con il nuovo regolamento, anzi col nuovo non regolamento che ha voluto la FIFA sul sistema delle intermediazioni, non sono previsti limiti di percentuali. Però la stessa cosa sta avvenendo nel caso Pogba, FIFA vuole indagare per capire se nel momento in cui c'è una commissione così alta, così importante, anche perché Ceferin e Infantino stanno pensando a una nuova regolamentazione che riduca la percentuale che può andare ai procuratori quando i prezzi di vendita sono così alti. Sì. Ebbene, in questo caso la FIFA vuole indagare se dietro quel tipo di commissione, posto che la direzione è quella di ridurre i compensi dei procuratori eclatanti, ebbene, se dietro quella percentuale si possa nascondere, mascherare una TPO, quindi una vera e propria proprietà. Questa è vietato, però fatta la legge trovato l'inganno, stavamo dicendo. Trovano di escamotage anche, per esempio, acquistando club satelliti in paesi come l'Uruguay, il Brasile, il Belgio, da cui fare transitare formalmente i calciatori e quindi appaiono come appunto di piena proprietà di un club, mentre basta che poi, Marco, non ce la vengano a raccontare. Assolutamente no, ed è quello che la FIFA mi auguro verifichi per togliere qualsiasi dubbio nel caso Pogba, e specularmente potrebbe poi applicarsi anche nel caso Donnarumma, posto che poi il procuratore, guarda caso, è lo stesso. Grazie Marco. Grazie, ti aspetto presto per approfondire altri punti come questo. Allora, ci fermiamo per il GR. Però se non state con noi, chi non sta con noi oggi ha sbagliato tutto, perché dopo il GR avremo Zvonimir Boban ai nostri microfoni. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19.10, su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Convocati. Svone Boban, oggi vice segretario generale della FIFA, sta arrivando a Castiglione Fiorentino, dove stasera riceverà un premio importante, storico, come il premio Menarini, 21esima edizione, premio Fair Play, finito nelle mani, premio nelle mani di grandi sportivi. Svone non poteva mancare a questo elenco. Mi scusi Zorro, dopo che è diventato vice segretario generale della FIFA devo darle del lei o posso andare avanti col tu? Andiamo avanti con ciao, il Zorro. Tu ciao, Zorro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ben trovato. Vabbè, come suona male sto vice segretario. Vuoi fare subito il presidente? Sì. Vuoi fare subito il presidente? Abbiamo un ottimo presidente. Adesso ne parliamo. Ma no, sì, parliamo. Adesso ne parliamo. Io voglio parlare del tuo nuovo lavoro, sono molto, molto curioso. Senti, stasera, tra gli altri incontri, quando ti consegneranno il premio Menarini, anche il mio amico Sasha Danilovic, che l'ha ricevuto in passato, rassegnati perché è la Serbia più forte della Croazia nel basket adesso, eh. Quindi. Lo so, la Serbia è veramente terra dei talenti, maggiormente i Balcani hanno questo. Ma nella genetica, nel DNA, questo so. Con la palla non siamo male. No, ma anche perché vi fate un mazzo così fin da bambini. Uno dei miei migliori amici è il commissario tecnico della Serbia. Lasciamo del basket, lasciamo stare. Senti, allora ricevi questo premio e poi ho letto che vai alla Bobo Summer Cup di Vieri. Ma sei pronto a finire nei video di Vieri, davvero? Di Bobo. Ma guarda, Bobo ci fa un grandissimo favore anche a noi, poi Bobo è un bravo ragazzo, credo che sia maturato tantissimo in tutto generalmente, e si diverte in fare questo, e tra di noi un po' c'è un speciale codice di aiuto tra i calciatori, poi le barriere cadono subito, abbiamo condiviso tanti anni su quel magico tappeto, magico rettangolo verde, quindi legami forti, anche se non si è magari amici, ma ci vai volentieri, tanto. Insomma. Ci si vuol bene. Sì, vado, non so cosa è quel sport lì strano, ma ma lo faccio per l'amore di Bobo. Lui arriva domani, che Gianni Infantino fa la festa al suo piccolo paese, non pagata dalla FIFA, pagata da lui, che prima non succedeva proprio così. Privatamente fa per il suo piccolo paese una festa tra l'Italia, Svizzera, le leggende, anche le leggende del mondo, facciamo un triangolare, allora Bobo viene, allora Fai un salto anche tu. Senti, mi parli del tuo nuovo lavoro? Suona male vice segretario generale della FIFA, però è un incarico importante. Cosa state facendo? Cosa stai facendo e cosa state facendo? Ma io credo che FIFA sia oramai un'organizzazione completamente differente di quello che era prima, diciamo infangata da quelli che senza minimo rispetto per il calcio, per la onestà, per i soldi, alla fine senza responsabilità, l'hanno veramente messa a un punto di non ritorno, cioè a un punto pazzesco, e lo sappiamo, l'abbiamo anche visto. Lo dico, c'è anche altre buone persone che hanno fatto tanto col calcio insieme alla FIFA, che non possiamo

su cui la FIFA sta indagando, dei soldi percepiti dai procuratori che formalmente sono illeciti, cioè i procuratori non possono possedere una percentuale di un giocatore. Poi questa direttiva viene aggirata, sai che mi riferisco al caso Raiola, è in corso un'indagine della FIFA sul trasferimento di Pogba, potrebbe ripetersi la stessa storia con il ben noto Donnarumma, perché pare che Raiola voglia una commissione del 20% con la, sulla vendita del, del giocatore. Io credo che questa situazione sia da regolamentare sul serio. Ma questo fuori dubbio. Poi se uno vuole fare qualcosa di diverso nella vita deve anche rispondere, sono le decisioni e le conseguenze. Però io credo, noi stiamo pensando, è una roba molto molto complicata, perché sempre si può in una o l'altra terza maniera far sì che avvenga pagamento a una persona attraverso, esatto. Sappiamo che esatto. È quasi impossibile, però almeno certe regole ci saranno. Io credo che abbiamo un avvocato alla, alla presidente della FIFA molto capace di questo e che sta pensando più che seriamente. Io devo dire che so cosa viene, sono stato di là, ho avuto mio padre come procuratore, figurati che procuratore per questa la vita, poi un po' alla fine che avevo problemi Giovanni Branchini. Però è un mondo complicato che bisogna mettere le regole. Che però dopo se vengono aggirate qualcuno poi non credo che appunto, non si scopra oramai tutto, tutto si so. Noi credo che come ecco il massimo livello della, di quelli che guidano calcio ovviamente dobbiamo fare qualcosa. No, Zorro, tu sei stato da noi, sei stato da noi per tanto tempo, sai come si dice in Italia, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, diciamo noi, ma lo sai benissimo che lo sai anche tu, e quindi però inganno poi se scoperto viene punito. Dovrebbe essere punito, mio caro. Dovrebbe, siamo lì, sappiamo, la vita è complicata, mica è un'autostrada. grazie Zorro, spero di sentirti presto. Zorro Boban. Ciao. Capito, signori? Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Mamma mia, come ti sento bene. Io ti adoro. No, abbiamo appena finito di parlare di massimi sistemi internazionali con Zorro Boban, che del suo nuovo ruolo. Ascoltato. Mi è scappata qualche domanda? No. Sembra che tutto chiaro. Bene, spiega bene, è convincente. Anch'io sono come te, non sono tanto d'accordo con questo mondiale a 48 squadre, però se ci deve essere una risposta convincente, lui l'ha data, però. Sì, ma poi ha anche detto: poi vediamo cosa succede, vediamo come va. Sono favorevole al nuovo da un lato, però non è favorevole al nuovo dall'altro, cioè quello della Superlega. Che non riguarda ovviamente la FIFA, riguarda l'UEFA, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa che non vorrei vedere mai un mondiale senza le grandi, ma questo lo sai, l'ho detto anche prima. Ma il mondiale senza le grandi è impossibile, dai. Non è impossibile fino a un certo punto, è impossibile perché capita. Abbiamo visto mondiali senza la Spagna, abbiamo visto mondiali senza l'Olanda, l'Inghilterra. Mondiali senza l'Inghilterra. Dico qualificazioni di diritto, perché dice qualificazioni bisogna farle, però un ranking, un sistema tale per cui le grandi ci siano sempre, ma è un discorso che abbiamo già fatto questo, Filippo, andiamo oltre. Andiamo oltre, perché Messi a Bigamo, sai perché? Si sposa due volte quest'estate. Si sapeva che era atteso al doppio matrimonio, no? No, che il primo era già certificato, cioè è in viaggio di nozze e ora si è sposato sul serio. L'altro era da venire, verrà celebrato al ritorno, quando si sposerà col Barcellona per sempre, fino al 2021. Sì, si sapeva anche questo, era abbastanza annunciato. Noi abbiamo parlato tanto, io ho sempre detto che probabilmente doveva per forza restare al Barça, perché le alternative non c'erano, cioè non ci sono le condizioni per una trattativa, o andava alla rottura e restava, non so, e li costringeva a trovarsi di fronte al fatto che poteva andare via gratis. Il Barcellona ha condotto male la trattativa, si è trovato col coltello puntato alla gola di un contratto faraonico che poteva solo rinnovare, cercare solo di contenere le richieste. Riesco a leggere solo la cifra settimanale: 570.000 euro. Perché fare il conto non sono capace, neanche con la calcolatrice. No, ma al di là di questo, su queste cifre, bisogna sempre vedere le cifre, così io. perché è difficile. La cosa interessante sono questi 50 milioni lordi, ovviamente, di diciamo alla firma in più, come gesto di diciamo di cortesia, ringraziamento per la fedeltà. Oltre allo stipendio ci sono questi fedeltà. 50. Vabbè, esatto. Lo aspettiamo anche noi. Vabbè, no, però no, va tutto bene. Non potevano fare altrimenti, dai. Ma non potevano fare altrimenti, sono d'accordo, clausola rescissoria a 300 milioni, ma tanto chi se lo va a prendere Messi, e rimarrà quindi in tutti noi il rimpianto di non averlo mai visto in un'altra squadra, e questo non ce lo toglieremo mai, perché avrà 34 anni quando finirà questo contratto, tornerà a Rosario Central come scelta di cuore, andrà a giocare in America o smetterà, questo poi lo vedremo, ma non sarà più Leo Messi, quindi carriera legata al Barcellona. Sì, deve essere così, sì, forse il Newell's, quello che sarà, però non, no, del resto non poteva essere, no, per me non poteva essere diversamente, io questi giorni ho scritto abbastanza di lui, no? Cioè questi quattro poli, no, cardinali, no? Il Barcellona, il calcio, Antonella e la famiglia, no? Alla fine è uno così, è uno fedele, no, vabbè, cioè hai iniziato parlando di due matrimoni. Anche questa Antonella, che abbiamo scoperto che si scrive con una sola L, questo, no? Antonella. Dico, la conosceva quando era ragazzino, al Barcellona si è arrivato che aveva 12 anni, è un appunto, fedele fondamentalmente. Vabbè, è un fedele, però mi sarebbe piaciuto vedere Messi da un'altra parte, come a, credo anche a te, a tutto il mondo. Un'ultima cosa, un flash su quello che è successo oggi. No, c'è Lukaku che non va più al Chelsea, va allo United per 84 milioni di euro. Quindi Morata e Real Madrid rimangono con il cerino in mano, ma è vero che era stata offerta la stessa cifra al Real per Morata? Beh, questo si dice, forse qualcosa in meno. Secondo me il Real Madrid ha esagerato nella cupidigia, cioè voleva a tutti i costi fare, cioè poteva accettare anche qualcosa in meno, secondo me, per Morata. Hanno voluto provare a fare il gran colpo. Per me gli resta sempre l'opzione del Chelsea, cioè il cerino di Morata forse finisce comunque in mano a Conte, secondo me c'è ancora questa possibilità. Però non aveva grande necessità di venderlo, il Real Madrid ha provato a fare più soldi possibili e adesso quella porta si è chiusa. Quelli sono una montagna, voglio dire, per un giocatore che il Real Madrid fa la riserva, magari hanno altri piani, considerando che per Benzema l'età avanza, Cristiano Ronaldo l'età avanza, al mal di pancia, eccetera. Sì, però adesso voglio vedere come li sistemano tutti. Cioè già quest'anno Zidane ha fatto un miracolo, no, lo so, Filippo, lo so Filippo, deve andare via. Sì, questo è in dubbio. Ci sentiamo presto, quando vuoi, bene posso parlare con te per giorni. Ciao Filippo Maria. Grande, Ricci, ciao. Allora, io ho tempo dei saluti, ma tanto per domani, quindi Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, tutti convocati domani pomeriggio alle 14, ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!